English Bit di Giulia Crivelli. Jerk. It pays to be a jerk, Bob Dylan edition. Essere stupido conviene, variante Bob Dylan. Potremmo tradurre così il titolo di un articolo pubblicato da The Atlantic sulla decisione di Bob Dylan di non andare a ritirare il premio Nobel per la letteratura assegnatogli dall'Accademia di Svezia. Giudizio sul comportamento del cantante a parte, la parola che ci interessa è jerk, che negli Stati Uniti significa stupido o anche più brutalmente cretino. Don't be a jerk, non fare lo stupido, si può dire familiarmente a qualcuno che conosciamo bene. Se invece usiamo la parola jerk, come ha fatto The Atlantic, per qualcuno che non conosciamo, il giudizio è più netto e quasi inappellabile. Dal nome viene anche il phrasal verb to jerk around. Consumers are often jerked around by big companies. I consumatori vengono spesso ingannati dalle grandi aziende. Speriamo che Bob Dylan non venga ricordato per il suo comportamento nei confronti dell'Accademia di Svezia. Ci volle una settimana dalla proclamazione perché arrivasse un ringraziamento e ci è voluto più di un mese per sapere che non andrà alla premiazione. Il cantautore americano ha scritto canzoni che hanno tutte le caratteristiche della miglior poesia e letteratura, oltre a essere spesso fotografie o denunce sociali. Pensiamo ad esempio a Hurricane, canzone scritta nel 1975 per denunciare l'ingiustizia subita dal pugile Reuben Hurricane Carter, condannato all'ergastolo per un delitto che non aveva commesso. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame. Ecco la storia di Hurricane, l'uomo al quale le autorità decisero di dare la colpa, for something that he'd never done, put in a prison cell. Per qualcosa che non aveva fatto, lo misero in una cella. But one time he could have been the champion of the world. Ma c'è stato un tempo in cui avrebbe potuto essere campione del mondo. That's the story of Hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Questa è la storia di Hurricane, ma non sarà finita finché il suo nome non verrà riabilitato e non gli verrà restituito il tempo che gli è stato tolto. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Fu messo in prigione, ma c'è stato un tempo in cui avrebbe potuto essere campione del mondo.